Sfumiamo questo pezzo che ci accompagnerà probabilmente per tutto il la puntata nuova di Coccoli al Silicio. Siamo già parecchio in ritardo sull'orario previsto, però se invece lo spostiamo alle 4 allora siamo in anticipo di 10 minuti, quindi forse lo spostiamo alle 4, così possiamo dire che siamo in anticipo. E oggi facciamo questo esperimento, nel senso che al posto di selezionare dei brani musicali a tema, che poi tanto non ci riesco mai a farli veramente a tema, li faccio sempre a caso, tengo sottofondo un album intero. In particolare ho deciso di sentire i Funkadelic, l'album è One Nation Under a Groove, e saltuariamente vado su e giù e quindi vi sentite a caso dei pezzi appunto di questo album che ci accompagna per tutta la puntata. È un album lungo, sono un'ora e mezza, quindi non ve lo sentite neanche tutto, perché io col cazzo che parlo un'ora e mezza, spero di parlare molto meno. E oggi abbiamo di nuovo un ospite essenzialmente è il nostro ospite ormai fisso delle... L'ospite tappabuchi, dai, diciamolo. No, è l'aiuto alla memoria, nel senso che non questa puntata in realtà volevo parlarvi, farvi la recensione di ciò che è accaduto, il racconto recensione di ciò che è accaduto a NAC a Napoli, visto che era un evento che abbiamo sponsorizzato tanto, ce l'ho detto almeno due volte che c'era, e una abbiamo fatto anche un'intervista. E di conseguenza ora l'evento è stato e mi sembrava giusto reso contare cosa è successo. Siccome però io non ho una gran memoria, io non mi ricordo mai niente, e allora mi faccio aiutare da un'altra persona che è venuta, e in questo modo si fa che tra tutte e due magari ci si ricorda, anche perché il programma dei talk sul sito non era in realtà il programma dei talk. I talk sarebbero insomma i seminari, le cose, le chiacchierate che si sono svolte, non era esattamente uguale a quello che poi è avvenuto. Cioè c'era successa più roba, ma io non mi ricordo più cosa è successo in più, quindi ho paura di dire poi solo quelli che erano sul sito e gli altri di dimenticarmeli. Se così avvenisse, nonostante la memoria in ausilio, ci scusiamo in anticipo con chi ha tenuto i seminari, perché non ci siamo ricordati di loro. Sì, anche perché la memoria in ausilio è un po', insomma, cavallo zoppo, quindi si fa quel che si può, ecco. Va bene, ma in realtà questo NAC avevamo detto che era su più giorni e iniziava in realtà il venerdì, non il sabato, quindi sì. Noi arriveremo a parlare del sabato solo dopo aver parlato del venerdì, e il sabato 6 ottobre, il venerdì 6 ottobre del venerdì, sì, e sostanzialmente si è svolta un evento unico praticamente, nel senso che si è iniziato dal mattino, anche se noi siamo arrivati dopo pranzo, quindi abbiamo visto solo il cibo, cioè il dopo cibo, e comunque dal mattino sostanzialmente si è iniziato a montare un'antenna per una radio in onde medie, per fare un esperimento e vedere se si riusciva a trasmettere in onde medie. E questo esperimento è partito appunto dalla mattina presto e quando siamo arrivati noi, in realtà l'antenna era già montata. Sì, sospetto che ci avessero anticipato di un bel po' e in realtà l'antenna l'avessero montata giorni prima addirittura. Addirittura giorni prima. Vabbè, Sospetto di sì, sai, però era allora no, non bella. è vero che dal mattino c'è l'installazione antenna on demand, cioè noi siamo arrivati dopo e però in realtà Sono cose loro... che si dicono, è come quando tu mi insegni alle trasmissioni quelle di cucina, tu arrivi con, non lo so, il guazzetto già fatto, il soffrittino già preparato, le patate già pelate, che non è che puoi stare lì alla prova del cuoco e sta a pelare le patate, arrivi con le patate già pronte, no? Vabbè, Loro però qui uguale. era un po' diverso e secondo me è un po' truffare in questo caso. Però va bene lo stesso, li perdoniamo, questi del terzo piano autogestito. Il terzo piano autogestito, se vogliamo spiegare che cos'è per chi non è mai stato a Napoli in quel luogo, è sostanzialmente il terzo piano della facoltà di architettura, che in realtà trattasi di una specie di terrazzo che dà su una corte interna, e questo terrazzo, dal quale potete ammirare il cielo stellato, in realtà si compone di vari laboratori autogestiti. E diciamo, in questo luogo abbastanza ameno e strambo, perché è una sensazione strana stare su un terrazzo a fare delle cose, fa un po' tra l'odio, però in Sì. Sì, un'università, quindi l'odio, è vero. odio, ma con attorno a noi un sacco Tra l'altro, di non so se cultura. ti ricordi, ma una delle cose più notevoli era che a un certo punto si sono avvicendati durante il pomeriggio di venerdì personaggi veramente strani e bizzarri a fare cose su questo cortile. Cioè, non cortile, su questa terrazza, tra cui due tipe, una con il clarinetto e una con le scarpe da tip tap che Che ballava il ballava tip tip tap, tap sì. sopra il clarinetto, così a caso. La tipa era No, giapponese, tra e l'altro. non era a caso, vero? Era per farmi invidia. Per Non... farti invidia. Io ho un de debole per il tip tap, ho sempre pensato che fosse un ballo be bellissimo. Io penso anche di essere bravo, anche se non ho potuto mai cimentarmi veramente nel tip tap, ma penso comunque di essere dotato in questo senso. E lei però era visibilmente molto più skillata di me. Io poi mi sono intimidito e non ho avuto il coraggio di interagire, anche se mi sarebbe piaciuto tanto dirle insegnami il tip tap, perché fin da bambino ho sempre voluto imparare, come Billy Elliot. E Ma vabbè. tralasciamo questi, che poi si intristisce il pubblico, altrimenti i nostri ascoltatori. Comunque, insomma, l'antenna è stata installata e quando siamo arrivati poi noi c'era in realtà da attaccare trasmettitore e modulatore per fare queste prove e straordinariamente ha funzionato quasi tutto non alla prima, però alla terza, seconda, quarta, sì, cioè insomma a fine giornata Sesta o tendenzialmente settima, forse. c'era l'antenna che trasmetteva appunto su una frequenza di prova e questo è quanto avvenuto sostanzialmente dalle 2 alle 7, quindi a tempo di record, direi. Sì, e piove, a un certo punto anche è iniziato a piovere, tanto Sì, ma per per. finta, non aveva vera Perché intenzione. siamo al sud, non è che piove davvero al Poi sud. nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, c'è stata anche la presentazione di un libro. Che io mi sono compevolmente saltato essenzialmente perché c'era ancora diciamo, in lavorazione l'antenna, nel senso che avevamo finito, cioè si stava attaccando le cose e si stavano facendo le prove per vedere sostanzialmente di riuscire ad accordarla sulla frequenza a noi cioè che, insomma, che desideravamo utilizzare e quindi mi sono perso, però è avvenuta anche questa presentazione. Di cui però non sappiamo raccontare assolutamente nulla, e quindi saltiamo a più pari alla sera. La sera c'è stato anche un concerto di questo collettivo Multiversal, che in realtà sospetto non sia, cioè sospetto sia composto da tante persone perché c'era anche della gente da varie parti d'Italia, quindi evidentemente è una sigla sotto la quale poi. vanno molteplici progetti e personalità, si trovano sotto questa sigla Multiversal. E, il concerto era un po' itinerante nei vari spazi, nel senso che c'è stato anche un pezzo del concerto che era sulla tromba delle scale. E quindi nulla. E poi la serata è andata a concludere, soprattutto per noi, perché eravamo stanchi morti e quindi siamo fuggiti e siamo andati a dormire. Il venerdì finisce e siccome si è parlato un sacco, ora vi facciamo ascoltare un altro pochino dell'album che dicevo prima dei Funkadelic, e intanto ci organizziamo le idee per raccontarvi il 7 ottobre. I said, well, you have to be reasonable. It's, you know, I've never been away for long before. And besides, they gave me a good deal. And I think that Funkadelica is, you know, the nation that, you know, I would like to live in. Queste sonorità un po' reggae, in realtà un po' afro, non era proprio funky funky super funky. No, non sei soddisfatto della tua No, va scelta? bene, però non l'avevo mai, manco, me lo avevo mai ascoltato Ma non l'album, si e tirato dice. completamente a indovinare. E vabbè, comunque dignitoso, secondo me più che Ah, dignitoso, spaccava proprio. ecco. Vabbè. E dunque, arriviamo al 7 ottobre, a sabato. A sabato ci si sveglia alcuni di noi molto presto. Io ero già sveglio alle 9, pronto a fare la doccia e attivo. Qualcun altro si alza molto più tardi. E dopo aver consumato un lauto pranzo, ci si avvia con la Ecco, scusa, calma. scusa, no, la cosa del cibo è comunque fondamentale, vorrei un po' sottolinearla perché a Napoli praticamente non abbiamo fatto altro che mangiare. Cioè, poi ci sono stati degli Te. intermezzi. No, non io, cioè io seguivo la massa e comunque il diktat era mangiare. Poi certo c'erano degli intermezzi dove ogni tanto succedeva qualcos'altro, ma fondamentalmente al NAC vorrei cioè, proprio spendere due parole su questo. Al NAC si mangia un sacco, ecco. sappiatelo per l'anno prossimo, lo dovevate sospettare perché stando a Napoli, però. Ah, lei sottolinea l'esperienza culinaria, io personalmente mi sono dedicato invece a nutrire la mia mente con degli spunti alquanto interessanti che per l'appunto hanno avuto l'apice, l'apice della loro... di questi spunti è avvenuto intorno alle 15 quando sono iniziati i talk, i seminari, insomma le chiacchierate, non so bene come dirle. E, allora adesso noi li passeremo in rassegna dicendo di ciascheduno ciò che ricordiamo, le impressioni, in modo che anche voi possiate, attraverso il nostro vivo ricordo, gioirne insieme a noi. E non andiamo in ordine di apparizione perché non mi ricordo più l'ordine di apparizione preciso, quindi andiamo nell'ordine in cui sono elencati al sito che potete visitare, nac.msac.org. Ah, peraltro mi è arrivata una mail in quanto parlatore in uno di questi seminari, che ci invitava a fornire del materiale, quindi ci sta che tra un pochetto, se andate sul sito che vi ho detto prima, cioè quello del NAC, troviate anche, oltre al programma, anche i link al materiale, se non avete potuto esserci. Tanto il materiale che ho io fa schifo, quindi ecco, è uguale. E, vabbè, comunque non è un sinonimo di serietà da parte loro. Poi il fatto che io non sappia dargli del materiale adeguato e all'altezza della loro serietà è un problema mio, ma senz'altro tutti gli altri invece sapranno, quindi insomma il mio seminarietto è quello sfigato di materiale e anche di per sé. E allora iniziamo con il primo talk citato, è Social Network Analysis a carta e penna. E questo è stato il clou del pomeriggio, nel senso io mi sono dovuto concentrare tantissimo per seguirlo e dopo mi sono addormentato secco, quindi per me è stato il clou. Ed era il secondo seminario. Perché non avevi mangiato abbastanza? Io che avevo mangiato un sacco di fritti, in realtà avevo il cervello sveglio, l'ho seguito senza troppa fatica, anche se effettivamente era molto denso di che cose. Si parla? Io mi ricordo calcolo di come le matrici. Sì. E, sì, essenzialmente si analizzava con carta e penna, o meglio, in realtà con l'ausilio di una lavagna, che però siccome non si poteva usare la lavagna, quella che già c'era perché era piccola, non mi ricordo che problema aveva, effettivamente c'era proprio la carta e il pennarello rotto, finito, faceva un po' schifo, su cui, quindi senza computer, senza aggeggi tecnologici, si cercava di analizzare le logiche che stanno dietro ad alcuni algoritmi che analizzano i vostri gusti e le vostre simpatie, le cose, le persone a cui siete collegati quando usate ad esempio cose tipo Facebook o altri social network, perché come tutti sappiamo, quando io che sono una grande utilizzatrice di Facebook o queste altre cose, quando mi... non ci sono i gruppi dentro Facebook, vero? No. Sì, ci sono i gruppi. Ci sono. Ecco, quando entro in un gruppo, chiaramente do un segnale a Facebook e gli dico ok, sono dentro questo gruppo. Quando mi faccio amico di qualcun altro, do un altro segnale a Facebook e gli dico ok, ho questo amico e via via. E attraverso le mie varie scelte, le mie varie preferenze, si può in qualche maniera delineare un profilo di chi sono e chi sono i miei amici, chi sono quelli che invece non mi stanno tanto simpatici e via via via. Si chiama profilazione, si fanno delle mappe su queste cose, insomma non è che ve lo devo stare a dire perché ormai lo sanno un po' tutti, giusto? Sanno un po' tutti. Sì, no, io lo sapevo già, io ho capito di questo coso, che praticamente era la matematica delle relazioni sui social network, cioè nel senso che non è che dalle vostre relazioni si ricavano solo le cose ovvie, no? Nel senso che io faccio amico uno, è evidente che quello è mio amico. E non basta così, cioè ci si può fare molto più di questo, no? Sì. Nel senso che sfruttando appunto delle delle alchimia, alchimia, ma della magia, sì, della magia matematica, che coinvolge principalmente il calcolo con le matrici, e la carta e la penna, e, ma anche no. Si possono da alcuni meccanismi relazionali semplici ricavare dei meccanismi relazionali molto più complessi, soprattutto se eseguiti su grossi numeri. E... esatto, e in questo caso era stato fatto un esempio su, allora ora qui prova di memoria veramente complessa, perché era stato preso in esame alcuni personaggi piuttosto interessanti da tracciare, e su cui è anche interessante fare una mappatura delle loro relazioni, no? Tipo ad esempio c'era Adorno, mi ricordo. C'era Adorno, poi filosofo c'era tedesco. Napoleone. Poi c'era imperatore condottiero francese, statista. Deleuze, filosofo francese. Mm-hmm. E poi chi c'era? Oddio. C'era uno che non c'entrava un cazzo con tutti loro. Aspetta, chi era? No, c'era anche Socrate un po' c'entra. C'era Socrate? Sì, c'era Socrate. Boom. Ah sì, è vero, c'era Socrate, c'era. E poi c'era, oddio, chi era quello che non c'entrava niente? Ora non me lo ricordo più. Bombolo, c'era Bombolo che non c'entrava niente con... No, me lo ricordo, era lo zio Fester. Ah, lo zio Fester, è come Bombolo comunque. Cioè l'equivalente. In effetti sì. E venivano analizzate alcune delle loro caratteristiche salienti, ad esempio l'essere o meno filosofi, l'essere o meno pelati, e queste sono quelle che mi ricordo di più. Ah no, l'essere o meno francesi. E che altro? Altre cose. Da queste qua praticamente si sviluppavano delle matrici successive, diciamo, che ci permettevano di dedurre sostanzialmente vari gradi di prossimità, ma soprattutto la cosa su cui si era sviluppata la cosa era individuare in questi che era lo snodo di tutti. Cioè, come individuo quei personaggi che finiscono poi per essere opinion leader, o comunque che sono centrali all'interno di un'organizzazione, anche se questa cosa non compare direttamente? Cioè, come faccio matematicamente a essere sicuro che se influenzo quello lì, lui influenzerà tanti altri? O se piglio quello lì, lui gli smonto l'organizzazione, come faccio? Ed è spiegato un pochino come queste cose vengono fatte da un punto di vista matematico, nel senso che non si tira a indovinare subito, si tira a indovinare dopo, cioè si mette la matematica davanti, fa i conti e poi dopo vediamo se cosa è venuto fuori e si ragiona. Io ho capito più o meno questo di questo. Sì, io sono rimasta... E mi è venuto in mente il gioco delle coppie con Marco Predolini. È vero! Con la famosa, capito, il calcolo dell'affinità. Il calcolo dell'affinità della coppia, e secondo me era questo sostanzialmente, forte. Sì, tra l'altro io sono rimasta un po' delusa, le ho anche detto, insomma, ho posto le mie rimostranze, che comunque pensavo che alla fine il capo di tutti fosse lo zio Fester, e non è risultato così, ci sono un po' rimasta male, però vabbè, no, vuol di dire fatto, che non ho capito. No, era Socrate. Non era Socrate. Secondo me sì, era Socrate. Era Adorno. No, Socrate. Vabbè. Secondo me Socrate era più capo, comunque era più vecchio, cioè nel senso che tutta la filosofia occidentale deriva o da Aristotele o da Socrate. Non è che questo è noto, quindi una volta che tiri in mezzo uno dei due, per forza sono loro lo snodo. Aristotele non c'era, c'era Socrate e quindi è stato lui. Stai piegando le matrici al tuo volere, secondo me. Può darsi. Beh, lo fanno tutti comunque, non è che lo faccio solo io. Mettiamo musica. We'll be right back. andiamo avanti con il secondo seminarietto. Questo era quello che ho fatto io, quindi è facile parlarne, forse, speriamo. E si trova a pacioccare gli elfi il richiamino, perché era sostanzialmente uno spin-off, un seguito. Il sequel, sì. Era delle cose che avevo, di una roba di cui avevo parlato ad Hack Meeting quest'anno in Val di Susa, e ho riciclato, perché comunque il mio seminario in Val di Susa era una serie di problemi aperti, di cose che non mi era riuscito di fare, che poi ho detto magari poi le faccio. Una l'ho fatta, e ho fatto il seminario su quella cosa unica che ho fatto. E sostanzialmente parlo di esempio difficilissimo, a pacioccare gli elfi, perché elf è il formato degli eseguibili Linux. Gli eseguibili sarebbero i programmi che voi lanciate, quindi quando lanciate tipo Mozilla o lanciate Chrome state lanciando un eseguibile. Quell'eseguibile ha un formato che è specifico per alcuni sistemi operativi, ad esempio Linux e i vari OpenBSD, FreeBSD e NetBSD, eccetera, condividono il formato ELF. Questo non dirà niente a nessuno, ma questa è la spiegazione. Oh. E questi formati sostanzialmente si possono paccioccare per fargli fare delle cose per cui non sono stati essenzialmente pensati. Nello specifico io stavo studiando la tematica dei virus, e quindi come si fa a inserire dentro uno di questi programmi un altro programma che si fa i cazzi suoi vivendo dentro a quell'altro. E diciamo, in questo mio trip, sostanzialmente a un certo punto mi sono imbattuto in un software che si chiama Backdoor Factory, che sostanzialmente fa quello, ma lo chiama backdoor, cioè sostanzialmente lui scrive una roba che è assimilabile a un virus, a un malware, eccetera, e poi questa cosa è però finalizzata ad aprire delle backdoor sulla vostra macchina. Cioè, ad esempio, io lancio una copia così trattata di Firefox, e oltre a Firefox, che dovrebbe partire se tutto va bene, si apre anche una specie di canale di controllo che è possibile utilizzare per arrivare sulla vostra macchina e fare cose. E quindi è quella che di fatto si potrebbe definire una backdoor. Ora, io mi ero accorto che questo programma funzionava per alcune cose, ma per altre non troppo, e allora ho detto lo faccio funzionare, perché così poi, non lo so, perché così poi capisco meglio come funzionano queste cose. E allora l'ho fatto funzionare. E poi è finito il seminario. E fine. Sì. Io non aggiungerò molto su questo seminario, perché comunque era bello complesso, però è stato molto comprensibile anche questo, secondo me. E ci è venuto utile, in parte, la sera poi per il contest di cui vi parleremo dopo. Ma questo è un'anticipazione. Era uno spoiler. Questo era il clou della serata. Proviamo a mandare a fare un altro seminario, visto che questo si è concluso molto in fretta. Allora, qui nell'elenco abbiamo il Community Mesh Network. Sì, allora c'erano due seminari in realtà, parliamone di tutte e due, almeno li Allora riuniamo. Parleremo anche di Indipendenza Tecnologica volume 2. Sì, perché poi erano tenuti dalla stessa persona, quindi possiamo un po' accorparli anche per ricordarceli meglio. Quello sulle Mesh Network era essenzialmente era un racconto di un'esperienza molto specifica, perché si parlava di un problema, ovvero una persona che vive, in realtà più persone che vivono sui monti nell'Emilia-Romagna, sparsi in posti un po' lontani dalla civiltà, che hanno problemi di internet, non hanno molto internet, e invece di esserne contenti in realtà lo vorrebbero. E quindi si sono ingegnati, hanno pensato di, siccome poi di fatto è vero che erano isolati, ma non così tanto isolati, perché come loro c'erano nella stessa vallata, ci sono nella stessa vallata altre persone con lo stesso problema, amiche e tutto quanto, e simpatiche, allora hanno deciso di mettersi insieme e far parte della rete Linux, del progetto Linux, E quindi mettere su una rete mesh, entrare a far parte di questa grossa rete mesh, più grossa ancora, e formare dei nodi in locali. Ci hanno raccontato come è successo, come l'hanno fatto, le problematiche sia tecniche, ma più che tecniche anche proprio logistiche, di come si va a mettere un'antenna sul proprio tetto se stai in campagna. Parliamo di antenna Wi-Fi. Sì, antenna Wi-Fi, giusto. Sì, perché prima in effetti avevamo parlato di antenne AM. Non no. Le radiofrequenze sono tantissime. No, qui si parla e ne siete proprio... immersi, stanno tutto attorno a voi, è un effluvio. Chiamiamolo effluvio, sì. Effluvio. E quindi sì, no, in realtà si parla proprio di Wi-Fi, perché il problema originario non era trasmettere radio, ma trasmettere internet, e quindi questo era... Trasmettere internet. Bello, no? Ah, trasmettere internet, come la televisione. E quindi, niente, è stata fatta questa cosa, ci è stato raccontato un pochino questa esperienza felice, perché a tuttora adesso funzionano così, sono molto contenti e soddisfatti, e quindi secondo me è... Il secondo bello. Seminario era sempre su una comunità autogestita. Il secondo seminario... Guarda che aggancio. È stato lo spunto, l'ha dato la presentazione dell'aggiornamento essenzialmente di questo libro. Libro. Opuscolo. Libro, chiamiamolo libro. Che si ora te c'hai il monitor con tutte le informazioni girato proprio verso di te. Certo, e io non leggo niente. Me lo tengo ben stretto per vedere cosa ti ricordi. Cioè proprio la memoria sfruttata. Allora, comunque... il libro si intitola Indipendenza tecnologica, e codesto è il volume 2. Questo me lo ricordavo, sì, indipendenza tecnologica, per qualcuno di voi forse l'avrà sentito negli anni scorsi sotto il nome di sovranità tecnologica, perché gli anni scorsi, quando erano a lavorare sulla traduzione del primo volume, in realtà usavano il termine sovranità tecnologica, hanno deciso che era un termine un po' bruttino in italiano, e io sono d'accordo. Suonava male, sì. Sì, è un po' brutto. Perché il sovrano è brutto. Sì, è un po' proprio da autoritaria, autorità, brutto. Meglio indipendenza. E quindi niente, ne hanno fatto, hanno presentato un pochino questo secondo volume, e che è in traduzione, però vabbè, niente. Ma sì. la traduzione sì, è sulla base di un volume scritto sostanzialmente da una comunità catalana. Sì, comunità catalana che ha un luogo fisico. Calafu, è una, si autodefinisce colonia ecoindustriale post-capitalista. Sì. Trattasi di sostanzialmente fabbricone con vari annessi abitativi. Proprio l'immobiliare, È una sorta di comune che una serie di persone hanno acquistato, e nella quale hanno sostanzialmente costruito una comunità che tenta di autogestire varie parti della propria esistenza. In questo senso, probabilmente il seminario precedente, che alla fine era un seminario che parlava di Linux e di come avere internet se stai lontano in montagna sui monti del Tirolo, come i nanetti della Loacker. E, non sta in Svizzera quel... no, vabbè. Sì, no. Veniamo giù dai monti del Tirolo. Ah, Tirolo. Scusa, no. Loacker. No, non me lo ricordavo. Vabbè, è pazzesco. Mi confondevo con Lilla. No, Mica. Quelle sono le mucche. Ma basta fare pubblicità. Basta. E sostanzialmente hanno deciso di andare a vivere e di costruire. Hanno scelto la vita. A vivere da qualche parte. E no, è perché avevo fatto l'inciso. Stavo parlando della comunità dove queste persone hanno scelto di andare a vivere. Capito? E poi mi hai interrotto questa cosa dei Loacker e non... Scusa. E sostanzialmente queste persone, insomma, hanno scelto di andare a vivere in questo luogo, e dove ci sono ben 27 appartamenti e un totale di 28.000 metri quadri di spazio. Gli annessi. No, quelli annessi sono quelli abitativi, 28.000 metri quadri sono la zona industriale colonica, colonia industriale. E vabbè, comunque, insomma, ci stavo un po' perdendo sostanzialmente nel guardare dei dati a caso dal sito, facendo finta di sapere di cosa stiamo parlando. Il sito, se volete vederlo, è calafou.com. org, mi raccomando OU perché altrimenti non lo trovate, e lì ci sono la descrizione sia in inglese che in spagnolo che in catalano. E... sì, ogni tanto fanno dei meeting, degli eventi a cui andare, che per cui se siete interessati sul sito trovate tutte le informazioni e può essere un'esperienza formativa, interessante andare a vedere cosa si muove laggiù. Io penso che nell'ambito delle loro varie insomma, il loro contributo alla riflessione su questi termini possa inserirsi in questo indipendenza volume, indipendenza tecnologica. Quindi se volete sapere un po' che pensano del mondo, forse potete leggervi quella cosa. Ora avremmo fatto una figuraccia, perché probabilmente loro invece non c'entrano un cazzo con questo volume e questo avranno... Come no? Certo. Okay, no? Io metto sempre le mani avanti perché uno qua dice le cose poi mette insieme e poi sbaglia. E questo succede sovente. Ma non sbagliamo mettendo un po' di musica adesso, perché abbiamo parlato tantissimo. Ci siamo preparati sui seminari successivi per non fare troppe figuracce. Non lo devi dire che io sono una persona sincera, va bene. Come mi lo penso, io lo dico, faccio così. E quindi vivo malissimo sostanzialmente. E, Allora, procediamo. Io procederei sempre in ordine, in ordine. Il prossimo in ordine è in realtà un seminario abbastanza tecnico di un progetto in Fieri, sostanzialmente. Siamo andati ora a ricercarci su GitHub anche l'indirizzo, sperando di non mandarvi su quello sbagliato, ma no, insomma, ci assomiglia parecchio a quello che abbiamo ascoltato. Questo progetto si chiama Talos e viene si autodefinisce a Secure Approach to Storage in Untrusted Environments, che sarebbe nel mondo dell'internet, come faccio a scambiarmi dei file in maniera sicura, tipo per esempio usando il cloud? Boh. E lui però pensa di aver trovato alcuna soluzione. Insomma, che Ci prova. ci ha un po' spiegato che, a quanto abbiamo capito, è sostanzialmente l'espansione della sua tesi di laurea o comunque di un progetto universitario. Ne ha descritto brevemente il Funzionamento. funzionamento con delle slide molto carine e sostanzialmente ha invitato poi chi fosse interessato anche solo a dare un parere tecnico, ha richiesto più che altro pareri tecnici, cioè dire perché questa cosa l'hai fatta così, non l'hai fatta cosà, ma secondo me quella non andava fatta così, andava fatta cosà, e può guardare, cercare su GitHub il progetto Talos scritto con l'H. Quindi THALOS, e l'utente è Clapton, che è difficilissimo da leggere. Questo, Ve lo guarda, cercate. facciamo che ve lo metto sul sito, vi metto, cioè su quando metto il podcast, metto anche il link a sta roba perché sennò è veramente troppo difficile. E quindi niente, questo seminario era piuttosto tecnico, anche i commenti sono stati tutti abbastanza sulle questioni tecniche, quindi non abbiamo molto da discutere, perché poi senza davanti le slide non sapremmo, o senza davanti la persona che fa il progetto, noi che è inutile ne parliamo noi per radio, cioè che stiamo a di. Quindi passiamo a un progetto più facile, che era sostanzialmente la presentazione dell'espansione, cioè le ultime novità riguardo al museo di informatica funzionante che fa capo al sito museo.freaknet. Te Baobax salta Baobaxia, cioè. è l'ultimo, lo facciamo per ultimo. Ora non siamo fuori ordine, nel senso che di fatto la lista dei seminari che è presente sul programma del NAC ammontava a 5 seminari. No, no, va 5, bene, non ti inalberare. capito? Però noi ne abbiamo assistiti a più di 5. Va bene, va bene. Ma allora, il Museo dell'Informatica Funzionante, che è questo museo molto interessante che esiste da un bel po' di anni in quel della Sicilia, sperduto nelle lande siciliane, in particolare a Palazzolo Acreide. In via Carnevale 17, Adesso è lì. CAP 96010, Palazzolo Acreide, in provincia di Non lo so, stai dicendo te? Sorrè, Ecco. Siracusa. No? Sì, non lo Speriamo. so. No, Sì. comunque se ti lanci poi devi finire. No, e quindi questo museo in realtà è lì adesso, è sempre stato a Palazzo Lacreide, ma è in questa sede qui da poco e proprio con questo seminario ci hanno un po' raccontato le ultime evoluzioni che sono state di carattere più che altro logistico, perché sono riusciti finalmente a trovare una sede grande dove mettere e ammassare tutti i loro meravigliosi computer e macchine Ci perché... hanno fatto vedere anche le foto di come l'hanno ripulita. Sì, ci sono delle cose bellissime. Ci hanno fatto vedere anche dei video stupendi di capelloni metallari che si asciugano i capelli con le ventole dei Questa computer. però penso che sia anche sul sito, cioè se guardate Sì. sul sito trovate senz'altro della gente che si polleggia E fa cose di strane. fronte a questi computer d'antan. Sì, perché la questione è mettere su, aver messo su, perché appunto esiste da un bel po' questo progetto del Freaknet, collettivo siciliano appunto, che tra le altre cose ha messo su questo museo di informatica funzionante, perché sì, non è il solito museo che... ne esistono un bel po' di musei blasonati della tecnologia dove si va a ammirare le vecchie macchine che però restano lì polverose, che nessuno usa e mai potrà usare. In realtà queste sono state recuperate e funzionano effettivamente, e ci sono delle perle, cioè, a parte i vecchi computer che vi potete immaginare, ci sono cose piuttosto bizzarre che è difficile trovare, insomma, nelle cantine. Loro sono andati nel corso degli anni a raccattare macchine bizzarre un po' ovunque e stanno continuando, e anzi fanno anche appello un po' a tutti gli interessati, che se hanno delle cose utili e belle e bizzarre da proporre, loro se le vengono a prendere. E quindi niente. Oltretutto, altra cosa molto importante è stata l'ennesima occasione per fare un po' un appello alla sottoscrizione, perché questo museo è autogestito e vive di donazioni, quindi insomma chi volesse sostenere questo museo lo può fare, e anzi sarebbe bello e importante farlo. Vi volevo sottolineare, se siete degli smanettoni nerdacci che vi beate dell'utilizzo delle shell e vi piace il terminale Enero, che sostanzialmente hanno anche una serie di macchine accessibili online, macchine d'antan. Io che mi sono subito, mentre in realtà stava parlando di questa cosa, io subito ho visto dal sito che c'era il link, se si va su archivio computer online dal sito museo.freaknet.org, e ho visto che hanno sostanzialmente raggiungibile da via Telnet un VAX WMS. Capito? Un micro VAX 3010 M40, che bomba! E poi hanno anche degli emulatori, tra cui un emulatore del PDP-11. Ma cioè, ora... capito? Lo storico PDP-11. Là dove il C ha preso vita. Ma ora non ti commuovere troppo, direi che dobbiamo andare avanti, anche se questa parte della trasmissione potrebbe durare all'infinito. All'infinito, sì. Però poi mi sembra un po' troppo vintage, poi ci mettiamo a piangere, a parlare dei camici come l'ultima volta, non mi sembra il caso, andiamo avanti. Comunque vi sottolineo che se volete giocare ci sono anche i giochi sul VAX WMS, potete giocare tipo a Star Trek, a Moria... capito, a Zork, a Netak, no, a Cyber Tank, Naval Battle. Non ne usciremo. Vabbè, e basta così. E allora passiamo al prossimo, abbiamo fatto Talos, questo rimane solo Baobaxia. Baobaxia era sostanzialmente la presentazione di un progetto brasiliano teso a, si parla, diciamo che di nuovo si ritorna a parlare di comunità, quindi in qualche modo è una parola che abbiamo usato già almeno tre volte questa volta, quindi si capisce che noi abbiamo a che fare con, evidentemente, con delle comunità. Questo nello specifico erano comunità rurali sparpagliate in zone un po' impervie del Brasile, ma anche no. E l'idea, a quanto mi è dato di capire, era sostanzialmente quella di collegarle in qualche modo tramite un mezzo informatico, cioè di dare la possibilità, ad esempio, a chi se ne sta sperduto nelle varie foreste in giro per il Brasile o per i monti o nelle, insomma, che non ha accesso alla banda larga, a tutte queste cose della vita moderna, però vive in un villaggio, avere comunque la possibilità di avere, che ne so, supporti didattici per la scuola, gli MP3 come tutti gli altri, di vedere i video e questa roba. Scambiarsi qui. Libri. Allora, come è possibile fare questo se internet non arriva? Allora hanno detto, vabbè, noi usiamo i che c'è, e sostanzialmente, almeno quello che ho capito io, anche se il seminario non era particolarmente tecnico, però forse l'aspetto tecnico era è comunque interessante. Loro utilizzano una roba che si chiama Gitannex, che sostanzialmente permette mantenere degli archivi aggiornati, ma senza che ci siano tutti i file. È come se io mi scambiassi un grosso catalogo della biblioteca, ma non è detto che poi ho tutta quella roba. Allora loro cosa hanno detto? Beh, no, tu inizia che quando noi arriviamo ti diamo l'archivio, tipo, perché passo di là in macchina e c'ho sempre tutto l'archivio dietro con me. Poi non è detto che io ho tutte le cose che ci abbiamo, no? Magari ne ho solo un po', però inizio a darti quelle po'. Poi passa un altro mio amico in bici 2 giorni dopo che c'ha con lui la chiavetta USB, capito, in tasca. Allora lui si scarica quello che c'ha e così, così facendo sostanzialmente anche chi va a trovare la comunità sperduta nel villaggio perché è andato a trovare, che ne so, la sua zia che vive lì, se è in contatto con questo network fa un po' da praticamente da messaggero, capito? Anche dove non arriva l'internet, arriva comunque la bicicletta, arriva al fuoristrada, cioè arrivi a piedi, ti porti dietro il tuo computerino, scarichi tutto su questo server che loro c'hanno in locale, però al posto di essere un sacco di materiale disordinato, è in realtà materiale ordinato perché afferisce a codesto, diciamo, a codesto repository creato con questa tecnologia JIT più Annex, che sostanzialmente permette questo scambio diffuso. Questo è quanto ho capito. Spero di aver capito. E con sì, questo, secondo me hai capito. Secondo me concludiamo la nostra rassegna di seminari. Vi lasciamo ancora un po' con un po' di musica e poi vi raccontiamo la sera, che è stata alla fine la parte più giocosa, ludica e novità. E devastante. E devastante per... Ma il gran finale però. Per me no, io mi sono spiaggiato su un treno a dormire. Devastante magari per voi che non c'avete il fisico. Sì, sì, noi siamo dei pischelli. E la musica ci ha abbandonato, non sappiamo come mai. Cioè, è andata un po' durare così. Tantissimo questo album, e invece ci ha abbandonato praticamente subito. E poi, oltretutto, ingannandoci perché non è vero che è finito. Cioè, io se guardo su YouTube, in realtà c'è ancora un'ora buona di trasmissione, ma non si sente più niente. Quindi probabilmente durava 50 minuti, ma poi quando l'hanno tirato fuori hanno sbagliato. Oppure c'è la ghost track. Forse un album con la ghost track. Guarda, cioè, comunque tipo... fidarti di YouTube fai sempre male, guarda, si sbaglia sempre. Sì, ma io posso cambiare, che mi frega. Vabbè, io... vabbè, ormai comunque siamo entrati, quindi parliamo, basta. No, no, ora si parla, però per poi dopo, in chiusura vi faccio ascoltare Funkadelic, Maggot Brain, full album, capito? Quando dopo, quando abbiamo finito di parlare. Allora, siamo arrivati a questa benedetta notte. E sostanzialmente questa notte cosa è successo? Prima si è cenato, perché comunque si è mangiato la pizza, perché eravamo a Napoli, tutto da programma, cioè quello non era niente di che. Poi c'è stato questo impasse, cioè questa attesa, questa spalmodica attesa, perché iniziasse il grande evento della serata, che era questo Hack Contest, che sostanzialmente era una gara in cui ci si divideva in squadre, oppure si poteva giocare anche da soli, oppure si poteva anche... non lo so, anche non giocare, era una scelta. E poi i nostri sostanzialmente ospiti, cioè nel senso noi che... Noi stessi, No, i nostri ospiti, nel senso che... gli ospiti, quelli che ospitano. Esatto. Era quello, cosa dell'italiano era, io sempre... Era questo utilizzo vetusto della parola ospite, che a me piace tantissimo. Si sono prodigati sostanzialmente per farci divertire con degli giochi, indovinelli, rompicapo, come potremmo definirli. Una caccia al tesoro, un po'. Una sorta di... Sì, il termine tecnico è capture the flag, no? Cioè, ruba bandiera. Sostanzialmente c'erano questo scenario tecnologico basato principalmente sul web, in realtà, nel senso che si trattava di attaccare delle macchine che avevano alcuni servizi esposti, e questi servizi esposti erano principalmente dei server web. Ora, se fino qua già vi siete confusi, non capirete un cazzo di cosa abbiamo fatto, però pazienza. Comunque, tendenzialmente si giocava a cercare di entrare in queste macchine. Quando tu arrivavi a un livello che era quello dove, diciamo, il Deus Ex Machina, colui che aveva partorito questo gioco, cioè insomma, l'inventore del gioco, andava bene, cioè raggiungevi l'obiettivo, trovavi un file con scritto flag, dentro quel file c'era un numeretto, tu pigliavi sto numeretto, ti andavi in una chat, perché anche se eravamo uno nella stanza di fianco non si poteva fare a mano, era più comodo usare il computer. A noi piace di più, sì. Siamo e nerd. Tu mettevi questo numerino nella chat e ti veniva dato, diciamo, l'accesso, le indicazioni per andare al prossimo tesoro, al prossimo cosa da trovare. Sì, provo a spiegarlo un pochino con parole più semplici, ovvero, era un gioco a livelli di difficoltà crescenti, dove ogni volta c'era un obiettivo, tu non sapevi qual era quell'obiettivo, perché era a volte entrare dentro una macchina, a volte ottenere l'accesso di root, cioè quindi l'accesso privilegiato, altre volte dovevi fare altre cose, insomma non è che sempre c'era lo stesso obiettivo. E sì, quando ci riuscivi, quando conquistavi questo obiettivo, appunto conquistavi la bandierina nel modo che tu hai precedentemente spiegato, e passavi al livello successivo, oltre a ottenere diversi punti. Punti che peraltro potevi spendere in hint, in suggerimenti che venivano dati dal bot della chat, che peraltro suggerimenti, io mi devo lamentare, non servivano assolutamente a niente. A poco. Non so i tuoi, ma io ne abbiamo usati due e ce ne siamo pentiti perché ci hanno detto delle banalità. Quindi no, noi li abbiamo usati praticamente tutti. Voi perché avete barato? Sì, sì, sì, sì, sì. No, diciamolo pubblicamente a questi microfoni. No, allora, nel mondo dell'hacking non c'è barare, non barare. Cioè, nel senso che noi abbiamo individuato una falla in questo sistema che sostanzialmente prevedeva che un utente, se chiedeva un int, esso veniva poi penalizzato. Allora noi abbiamo detto, bomba, noi si fanno due utenti, uno chiede gli int e l'altro piglia i punti. Questo è hacking, capito? Questo è utilizzare la materia grigia, capito, per fottere il sistema. Capito? Non è che abbiamo barato, cioè eravamo calati nel gioco e abbiamo giocato. Sì, ecco. Sì, avete giocato e abbiamo giocato tutti quanti fino alle 6 del mattino essenzialmente, perché i livelli erano crescenti, ma c'erano nel mezzo, dobbiamo dirlo, delle difficoltà veramente insidiose che insormontabili per che noi. Insormontabili, che non erano tanto a un livello tecnico quanto a un livello di cultura generale di massa, a cui noi nerd siamo veramente no, ma secondo me è anche un pochino, però, cioè, nel senso che i nostri ospiti secondo me hanno dato per scontato un pochino che tutti quanti dobbiamo sapere le formazioni del Napoli dall'inizio della storia fino alla fine, che non è una roba che si può dare esattamente per scontata, no, capito? Perché magari se stai a Napoli è così, ma se non stai proprio lì io non la so. Cioè io ad esempio sono torinese, però non pretenderei da un altro che mi citasse a memoria la formazione del Gran Torino, quello che si è schiantato a Superga, che peraltro non so neanch'io. Però mio babbo, che è tifoso del Toro, ci sta che la sappia. Mio padre la sa. Ecco, anche il suo babbo che è una persona strana, che e si poi abbiamo poi si è schiantato e ha smesso. Infatti ha smesso, ha detto vabbè. Perché voleva stare con quelli che vincevano. E ha detto però sto così con quelli che vincono, tutti. Sto per la Fiorentina. Con la Juve. Per la Fiorentina. Vabbè, già meglio. E comunque era molto difficile per noi questa cosa, no? E dovevamo individuare la password dell'utente Maradona. Sì. E su questa cosa qua ci abbiamo spiaggiato tutti quanti un'ora buona. Cioè, sì. Un'ora siamo rimasti lì e solo quando praticamente ce l'hanno servita su un piatto d'argento, cioè siamo riusciti ad arrivare a trovare sta cavolo di password, che comunque era un altro giocatore, due, cioè c'era il secondo giocatore più famoso del Napoli dopo Maradona. Che io peraltro non ricordo ancora. Manco io. Vabbè. E due. E io da questa cosa qua, capito, magari uno ci arrivava subito se aveva tutti gli elementi, no? Cioè per noi era una roba praticamente impossibile. Sì. Nonostante questo, comunque il gioco è andato bene, è stato divertente. Non era neanche così realistico, nel senso che mentre all'inizio erano molto indovinelli così, poi però effettivamente è diventato abbastanza, non so come dire, abbastanza preciso, no? Nel senso che alla fine dovevi sfruttare una vulnerabilità di un WordPress per entrare, Sì, di un aprirti una plugin. shell, poi dovevi lavorare con la shell, quindi c'era tutta la questione dell'escalation, dei privilegi, cioè era abbastanza realistico, cioè entro dal web, poi sto sulla macchina, devo fare cose sulla macchina. E quindi si arrivava fino all'ultimo livello, io me sono scappato, che era, diciamolo per completezza, bisognava risolvere un buffer overflow, credo, in una situazione di macchina con ASLR attiva, quindi non una roba super banale, una roba abbastanza particolare, diciamo. Sì, l'ultimo. Credo che fosse attiva, perché io poi sono andato via, non lo so, però da quello che ho potuto guardare, doveva esserci anche una difficoltà in più. Allora, io su questo non ti posso aiutare perché l'ultimo livello io ho capito che si trattava di guardare lo Stack Overflow e ho detto ok, io mi fermo qui. Cioè, comunque ero arrivata al penultimo livello, ero già molto soddisfatta di me e basta. Poi dopo Sì, non so. dopo aver inviato la password dell'utente Maradona, secondo Cazzo, me uno. no, mi Mannaggia, fischiavano allora. le orecchie. E quindi niente, l'esperimento è stato molto, molto, molto bellino, credo, no? Anche il giorno dopo, perché così saltiamo anche alla domenica, vi diciamo che è successo la domenica, anche nell'assemblea domenicale del post serata 6 del mattino, non so che ora l'avete fatta, alle 5 del pomeriggio. No, l'abbiamo fatta prima di pranzo, E diciamo. riuscivate a parlare? Poco, Ah, infatti. però. Però a grugniti si è capito che comunque questa è stata un'esperienza positiva che si vorrebbe ripetere, si vorrebbe ri ripetere ancora. Era stato già provato in realtà quest'estate a fare un capture the flag ad Hack Meeting, era andato un po' meno bene forse per la collocazione in concomitanza, nel senso che lì non c'era un cazzo la sera e quindi abbiamo giocato tutti. Ad Hack Meeting è stato fatto forse questo errore di metterlo insieme a mille altre cose e quindi poi uno dice vabbè però... I capture the flag me lo posso fare anche a casa, capito? Qua devo seguire il seminario, c'è cioè gli amici, ci voglio parlare, giustamente si privilegia la socialità. Ma poi ci sono state anche altre cose che abbiamo detto, che ad esempio il Capture the Flag che è stato fatto in valle era bello, era anche il primo esperimento, quindi sicuramente figo, ma aveva anche il problema che era molto specifico, molto tecnico e dovevi sapere delle cose un po', cioè, parecchio dettagliate, precise, mentre questo invece aveva dei livelli di conoscenza anche diversi, crescenti su vari aspetti, non sempre Certo, sì, soltanto sulle infatti è stato vulnerabilità. figo anche per questo, sì. Sì, cioè poteva giocare anche un po' più di gente, chiaramente era un livello tecnico sempre molto alto, cioè molto, abbastanza alto, ecco, però insomma, Però la divisione in squadra aiuta. sì. Noi no, perché io mi sono messo nella squadra con... Sì, voi avete fatto la super squadra, maledetti, E come super abbiamo anche gruppo. rubato. Noi eravamo in due, ma comunque siamo andati forti. È vero. E quindi niente, io concluderei qua questa puntata che è stata alla fine lunghissima. Spero che il report sia risultato interessante e non noiosissimo. Se vi siete annoiati, alla fine a noi non ce ne frega niente. Cambiate stazione se ne trovate una meglio. Non lo dire perché poi lo fanno e la trovano. No, no, no, non è vero. No, vabbè, se siete antipatici, cambiate stazione se volete vedermi piangere, che non è difficile comunque. E quindi vi lascio ad ascoltare un pochino sempre dei Funkadelic, Maggot Brain. Stavolta spero che YouTube non mi abbia truffato e poi anch'io dovrei procurarmi degli strumenti tecnologici meglio, no? Ma tipo un lettore MP3, non lo so, una cosa. Tipo, per Ah, esempio. sì. Esoterici. Beh, ciao quindi. Si dice ciao quando uno chiude la trasmissione? No, Se ritorniamo sei una dopo. persona educata. Ah, a te no. No, io chiudo di botto e basta. Vabbè, allora io vi dico ciao perché sono educata. E io... Ciao.